dimenticare che la storia è femminile. Erano emigrate, morte soffocate, morte soffocate. Era l'8 marzo di un anno maledetto, il cielo si fece scuro, su New York un fuoco osceno, su New York un fuoco osceno. C'è sempre un giorno nero a ricordarci che per il progresso sono morti molti innocenti sotto le ingiurie dei potenti. Oggi, grazie a quelle donne, siamo quello che siamo. Oggi, anche per loro, noi cantiamo, noi cantiamo. Dimenticare che la storia è femminile. Erano emigrate, morte soffocate. Era l'8 marzo di un anno maledetto. Il cielo si fece scuro, su New York un fuoco osceno, su New York un fuoco osceno. C'è sempre un giorno nero a ricordarci che per il progresso sono morti molti innocenti sotto le ingiurie dei potenti. Oggi, grazie a quelle donne, siamo quello che siamo. Oggi, anche per loro, noi cantiamo, noi cantiamo.